Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Vi mangerei tutti per il gusto, poi di vomitare. Siete i principi del pettegolezzo, quindi non mi coinvolgerete più. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a Grillo è chiaro che i giornalisti sono indigesti. Avete sentito, ho detto vi mangerei soltanto per vomitarvi. Parleremo delle tensioni interne al Movimento 5 Stelle, poi dello spiraglio che riguarda la Lega, forse c'è uno sblocco dei fondi che sono stati sequestrati, lo sapete, per le malversazioni di Belsito e di Bossi. Poi c'è il PD che ritorna con una nuova proposta di legge elettorale, l'ennesima, e poi ci toccherà occuparci nuovamente di violenza sulle donne, perché ormai ogni giorno chi dice emergenza sociale, chi dice in realtà si denuncia di più, comunque ci sono un sacco di casi negli ultimi giorni di violenze sessuali, i femminicidi che continuano, ogni 2-3 giorni una donna viene uccisa in Italia. E poi tenete conto che non vi raccontiamo tutte le violenze di cui veniamo a conoscenza attraverso tutte le agenzie che battono le notizie, sono talmente tante in un giorno, dagli abusi sulle bambine, sulle mogli. L'ultimo, vedevo poco fa, uno che ha aggredito la moglie e i figli con un piede di porco. Insomma, quindi se dovessimo raccontarvele tutte dovremmo dedicare ore e ore soltanto a questo tema, ma ce ne occuperemo anche questa sera. Intanto vi ricordo, prima del riassunto della giornata, per i vostri messaggi e le vostre opinioni, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666. Tra l'altro poco fa è arrivata anche una brutta notizia dal Messico, un fortissimo terremoto nella capitale, magnitudo 7.1, a migliaia in strada per il panico. Però adesso vi racconto. L'Assemblea Generale dell'ONU, nel suo primo intervento al Palazzo di Vetro, Trump minaccia la distruzione del Nord Corea e attacca l'Iran. Messico, fortissima scossa di terremoto, panico nella capitale. Ancora violenza sulle donne, una dottoressa stuprata durante la guardia medica a Catania. A Roma, 3 stupri in 10 giorni. La sindaca Raggi chiede leggi speciali, Salvini la castrazione chimica. Politica, stop del tribunale alle regionali in Sicilia del Movimento 5 Stelle. Cancelleri va comunque avanti. E per la Lega, spiraglio per uno sblocco dei fondi. Il PD intanto rilancia sulle leggi elettorali. Expo, il sindaco di Milano Sala a processo per falso. Ryanair cancella 702 voli in Italia. Il ministro Delrio avverte niente sconti. La compagnia offre un bonus ai piloti per rinunciare alle ferie. Giocattoli, Toys R Us in bancarotta, vittima delle vendite online, 400 milioni di debiti, il colosso dei giochi getta la spugna. Calcio, torna alla Serie A, in campo Bologna-Inter. Partiamo quindi dall'Assemblea Generale dell'ONU con il primo discorso tenuto da presidente da parte di Trump, che all'ONU ha lanciato un monito diretto a Pyongyang, ha detto: se ci attaccano non c'è altra scelta che distruggere la Corea del Nord. Rocket Man, come Trump chiama Kim Jong-un, è in missione suicida per se stesso e il suo paese. Ha quindi assicurato che sconfiggeremo il terrorismo radicale islamico e ha ribadito, sempre Trump, metterò l'America sempre al primo posto e ne difenderò gli interessi, sottolineando poi che l'accordo con l'Iran è un imbarazzo per gli Stati Uniti, sapete, quello voluto da Obama. L'America sempre al primo posto, ha sottolineato più volte Trump. Sentiamo come ha commentato da New York il nostro presidente del Consiglio Gentiloni. Il nostro è sempre un approccio multilaterale, ma guai a confondere approccio multilaterale con il fatto che noi non ci preoccupiamo dei nostri interessi nazionali. La nostra politica estera in Libia si preoccupa della sicurezza, dell'immigrazione, il nostro lavoro sul cambiamento climatico si preoccupa dello stato di salute della nostra economia e del nostro ambiente. Quindi è chiaro che bisogna trovare un punto di sintesi. E per quanto riguarda il Messico, vi dicevo poco fa la notizia di un fortissimo terremoto che ha scosso la capitale, Città del Messico, è stimato a 7.1 di magnitudo. La scossa, lo riferisce l'ente geofisico americano, molte persone sono fuggite in strada, come riferiscono i media locali. Nella capitale vivono oltre 20 milioni di persone. Città del Messico, l'epicentro è nella regione di Puebla, a 10 km di profondità. Torniamo in Italia per parlare ancora di violenza sulle donne. Una dottoressa è stata stuprata da un 26enne italiano, poi arrestato dai carabinieri durante la guardia medica a Catania. A Roma, intanto, dopo il caso di ieri, vittima, ricordate, una donna tedesca nella capitale, sono 3 gli stupri negli ultimi 10 giorni. E mentre prosegue la polemica sulla sicurezza a Roma, la sindaca Raggi chiede leggi speciali, Salvini la castrazione chimica, e sempre nella Lega Calderoli invece vuole depositare un disegno di legge che prevede la castrazione chirurgica. Dopo torneremo a parlarne. Intanto la Corte Europea dei Diritti Umani ha rifiutato la richiesta del governo italiano di inviare davanti alla Grande Camera per un nuovo esame un caso di violenza domestica. Il 2 marzo scorso la Corte Europea aveva condannato l'Italia per non aver agito con sufficiente rapidità per proteggere una donna e il figlio dal marito che alla fine aveva ucciso il ragazzo e tentato di assassinare la moglie. La condanna è quindi definitiva per l'Italia. I giudici hanno stabilito a marzo che, non agendo prontamente, le autorità italiane hanno privato la denuncia di un qualche effetto. La Corte ha quindi riconosciuto alla ricorrente, la donna che è riuscita a sopravvivere, 30.000 euro per danni morali e 10.000 per le spese legali. La politica italiana: stop del tribunale alle regionarie in Sicilia del Movimento 5 Stelle. Il candidato Cancelleri però fa sapere che va comunque avanti. A Roma intanto Grillo attacca i cronisti, avete sentito, vi mangerei solo per il gusto di vomitarvi, replica il segretario della Federazione Nazionale dei Giornalisti Lo Russo, che dice lui provoca la nausea anche a digiuno. E per la Lega uno spiraglio per uno sblocco dei fondi, il PD rilancia sulla legge elettorale, e di tutto questo poi torneremo a parlare tra poco. Intanto si continua a lavorare alla legge di bilancio. L'economia italiana migliora, ma bisogna fare di più e meglio, lo dice il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Siamo solo all'inizio di un processo che ci deve riportare non solo a dove eravamo, ma anche meglio. Abbiamo quasi recuperato la distanza rispetto alla crisi, ma siamo ancora lontani rispetto al mondo pre-crisi. Quindi bisogna fare molti più passi avanti, non c'è assolutamente spazio per sentirsi soddisfatti. Anche perché, spiega Padoan, all'orizzonte c'è la manovra 2018 e le risorse a disposizione, dati i vincoli di bilancio, sono pochissime. Il PIL è sì migliorato, ma non in modo tale da consentire un allentamento significativo dei paletti. Sicuramente, dice il ministro dell'economia, l'occupazione giovanile è una delle pochissime voci che avrà qualche risorsa nuova in più. Le imprese, assicura il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, presentando i risultati del piano Industria 4.0, potranno contare sul credito d'imposta per la formazione 4.0. Vendita e marketing, informazione, tecniche e tecnologie di produzione, i campi di applicazione. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora l'inchiesta sull'Expo. A processo il sindaco di Milano Sala, ma solo per falso. Si accantona l'accusa più grave, ma per il reato di falso ideologico e materiale il sindaco di Milano ora rischia il processo. La Procura Generale chiede il rinvio a giudizio per Giuseppe Sala come ex amministratore delegato di Expo, ma con una parziale marcia indietro stralcia la contestazione sulla turbativa d'asta per l'appalto sulla fornitura di alberi, una distinzione che sembra preludere alla richiesta di archiviazione, come per il costruttore Paolo Pizzarotti. Quella da cui ora Sala dovrà difendersi è dunque soprattutto l'accusa di aver retrodatato nel maggio 2012 due verbali della commissione aggiudicatrice della gara sulla piastra, il principale appalto di Expo, con l'intento, scriveva la Guardia di Finanza in un'informativa, di evitare di annullare la procedura per il ritardo già accumulato. La Procura Generale aveva avvocato a sé il fascicolo, contestando ai PM di non aver proceduto con l'iscrizione dell'attuale sindaco. Ora però, dalle richieste di rinvio a giudizio già notificate, scompare per Sala la contestazione riguardante l'affidamento diretto alla società Mantovani della fornitura di 6.000 alberi per 4,3 milioni a fronte di un costo per l'azienda di 1,6. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il caso Ryanair e il blocco di centinaia di voli. La compagnia avrebbe offerto ai suoi piloti un bonus straordinario fino a 12.000 euro lordi in cambio della parziale rinuncia alle ferie per rientrare da questa impasse. Parla di contromisure il governo con il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Riccardo Nencini, intervistato da Anna Marino. Stiamo lavorando su 3 fronti. Da una parte il riconoscimento di un danno economico. Come lei saprà, c'è bisogno perlomeno di 15 giorni di avvertenza se ci sono delle modifiche, e siamo perfettamente al di là invece di questa condizione, di questo requisito. Secondo, la previsione di compensazioni ulteriori, che nel caso in cui si verifichi la condizione che ora le dicevo, un tempo di preavviso inferiore ai 15 giorni, sono dovute all'utente. Terzo, abbiamo chiesto la riprogrammazione dei voli. Non ci sarà alcun processo per l'autista del bus nel quale morirono, vi ricordate, in Spagna nel marzo 2016 13 studentesse Erasmus, fra cui 7 italiane. Non ci sono indizi per accusare l'uomo che era alla guida del bus schiantatosi quel 20 marzo dell'anno scorso sull'autostrada fra Valencia e Barcellona. Rodriguez Jiménez, 62 anni, aveva riposato a sufficienza durante la sosta, non si era addormentato al volante ed era idoneo alla guida. Insomma, la causa dell'incidente sarebbe la pioggia, secondo il GIP del Tribunale di Amposta in Catalogna, che rinvia le parti ad una possibile causa civile, confermando di fatto la prima archiviazione, avvenuta senza che l'autista fosse stato interrogato, archiviazione contro la quale aveva fatto ricorso il padre di una delle ragazze italiane. Il Papa, il Presidente della Repubblica e del Consiglio ci stiano vicini, chiede ora la madre di una delle studentesse che hanno perso la vita, Elisa Valent, di Venzone, vicino Udine. Faremo un nuovo ricorso immediatamente, annuncia. Parla invece di un fatto che lascia sgomenti l'europarlamentare PD Isabella De Monte, che aveva chiesto alla Commissione europea di verificare se la Spagna avesse rispettato gli obblighi comunitari in tema di sicurezza stradale. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha scritto al suo omologo spagnolo, il ministro Rafael Catalá, esprimendo il rammarico delle famiglie delle vittime dell'incidente stradale in cui hanno perso la vita le studentesse Erasmus e auspicando che ci sia ancora la possibilità di chiarire quali siano state le cause e le circostanze dell'incidente. Dall'estero due notizie che hanno portato delle polemiche: la sua invenzione ha ucciso milioni di persone, ma la Russia, come prima l'Unione Sovietica, non smette di celebrarlo. Anzi, il generale Mikhail Kalashnikov, padre del famoso e micidiale fucile mitragliatore d'assalto che porta il suo nome, adesso ha persino una statua di bronzo nel pieno centro di Mosca. È stata inaugurata questa mattina durante una cerimonia a metà statale, a metà religiosa e non priva di polemiche. E poi in Brasile invece fa molto discutere questa decisione di un giudice federale di autorizzare i psicologi a curare i gay. Questo ha scatenato una bufera e ha riaperto il dibattito sull'omofobia. Di nuovo in Italia con la cronaca, l'autopsia compiuta sul corpo in avanzato stato di decomposizione di Noemi Durini non ha finora fornito elementi certi per stabilire le cause della morte della sedicenne, ma i medici legali hanno forti sospetti su alcune lesioni presenti tra il collo e la testa della ragazzina. Il fidanzato di Noemi, detenuto per l'omicidio, ha detto di aver ucciso la ragazza con una coltellata al collo. E poi per quanto riguarda il cinema, torna a Blade Runner, tra malinconia e fumo. Il regista, in questo caso non è Ridley Scott ma Villeneuve, dice: ho rifatto il film che mi ha spinto alla regia quando avevo 15 anni. Sarà in sala il 5 ottobre. E un altro film che arriva in Italia, La battaglia dei sessi, Breakpoint contro il sessismo, con Emma Stone e Steve Carell, rivive lo storico match di tennis Riggs-Kings. È in Italia in uscita il 19 ottobre, è l'adattamento cinematografico della celebre partita di tennis nota come la battaglia dei sessi, avvenuta il 20 settembre 1973 tra Bobby Riggs, interpretato da Steve Carell, e Billie Jean King, Emma Stone. Quindi tra un uomo e una donna vinse la King, come Dario Ricci probabilmente si ricorda. Dario? Sì, io non c'ero, me l'hanno detto, adesso non mi far troppo più vecchio di ancora evanescente quello... diciamo, sì, stavo per arrivare, se non sbaglio hai detto il 73, quindi marzo, io sono di marzo, quindi non so quando sono arrivato, rispetto alla partita forse già era arrivato. Però detto questo, bellissima anche l'intervista che Billie Jean King pubblicata su Repubblica del 12 settembre. Andrei però ora sulla... ultra settantenne lei, no? Grande sì, grande, una delle leggende del tennis e dello sport mondiale. Andrei anche sulla cronaca, però più prosaica. Calcio, Serie A. Sì, ci parla di un Bologna-Inter, che anticipo della quinta giornata, che è al 27esimo di gioco, risultato ancora sullo 0-0, bene all'inizio l'Inter, poi un gran Bologna guidato da Simone Verdi, che per ben tre volte ha sfiorato il gol. All'ottavo prodigiosa la respinta di Handanovic, poi Pulgar ha sfiorato a sua volta il palo, al quindicesimo un destro alto e al sedicesimo un tocco fuori di pochissimo. Quindi 28esimo di gioco, ancora 0-0, caro Roberto. Grazie caro Dario Ricci, ci sentiamo più tardi per gli aggiornamenti naturalmente. Intanto vedo molti vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte in particolare, e anche al 349 238 6666. proposito della violenza sulle donne, sul cosa fare, sulle richieste politiche, no? Vi dicevo la sindaca Raggi che chiede leggi speciali, Salvini la castrazione chimica, Calderoli vi dicevo addirittura vuole depositare un disegno di legge per la castrazione chirurgica in certi casi. Allora Francesco dice: quella di Calderoli è demagogia spicciola e propagandistica che lascia il tempo che trova, secondo me lo stupro è poco lontano dall'omicidio, dunque servirebbero pene inasprite e certo e soprattutto tanta educazione fin dalla più tenera età. E molti altri messaggi, voglio dare anche diciamo qualche secondo così di visibilità a questo ascoltatore Giacomo da Bergamo che dice: grande Grillo, che dice mangerai i giornalisti solo per vomitarli, dice siamo tutti con te, con Grillo naturalmente, andiamo a vincere e questi servi di Renzi spariranno tutti, quindi insomma, immagina Giacomo la nostra estinzione, però tra poco ci sentiamo comunque. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi qui, Roberta Giordano sempre con voi, avete sentito il riassunto della giornata, delle cose più importanti, come sempre puntualmente alle 21, poi vi ricordo ogni tot quando ci sono le pause, le notizie più importanti. Intanto i vostri messaggi che stanno arrivando sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 che è il numero per WhatsApp ed SMS. Dicevo, molti messaggi dell'argomento che affronteremo tra poco. C'è anche Alessio che dice appunto sulla ennesima violenza contro le donne, come mai unico caso di questi giorni di violenza sessuale sventata e della tanto bistrattata polizia locale di Roma Capitale, si chiama controllo del territorio. Ma Alessio, adesso nessuno vuole infierire su Roma, però su 3 casi degli ultimi 10 giorni a Roma uno è stato sventato e gli altri 2 addirittura la donna di ieri era stata trovata nuda, legata a un palo, quindi il suo violentatore ha fatto in tempo proprio ad abusare di lei, a legarla, a spogliarla e poi è stata trovata da un tassista proprio nel cuore della notte. Comunque, come diceva ieri il caporedattore del Messaggero, non è una questione di chi è più bravo, chi è meno bravo, è davvero la necessità di convogliare tutte le forze e la ribellione anche della società a questo tipo di cultura così diffusa, così dominante, e anche delle forze politiche di non fare polemica tra di loro, ma cercare di pensare a che cosa concretamente si deve fare, unirsi su questo una buona volta. Tra poco gli ospiti saluterò su questo argomento, intanto vi ricordo, se l'avete acceso puntualmente alle 21 su Effetto Notte, quali sono i fatti principali di oggi. L'Assemblea Generale dell'ONU, nel suo primo intervento al Palazzo di Vetro, Trump minaccia la distruzione della Corea del Nord e attacca l'Iran. Per quanto riguarda il Messico, notizia arrivata poco fa, questa fortissima scossa di terremoto, panico nella capitale, molte persone in strada, vi ricordo la città del Messico, ci sono 20 milioni di abitanti. Ancora violenza sulle donne, una dottoressa stuprata durante la guardia medica a Catania, a Roma 3 stupri in 10 giorni, la sindaca Raggi chiede leggi speciali, Salvini la castrazione chimica. La politica, stop del tribunale alle regionali in Sicilia del Movimento 5 Stelle, Cancelleri va comunque avanti, per la Lega intanto c'è uno spiraglio per uno sblocco dei fondi, il PD rilancia sulla legge elettorale. Expo, il sindaco di Milano Sala a processo per falso, la vicenda Ryanair che sta facendo molto arrabbiare utenti e governo, cancella 702 voli in Italia, il ministro Del Rio avverte niente sconti e la compagnia offre un bonus ai piloti per rinunciare alle ferie. E poi per il calcio torna la Serie A, in campo Bologna-Inter. Allora, torniamo quindi su, avevamo appena parlato ieri dell'ultimo degli innumerevoli casi di violenza sulle donne, quello di cui è rimasta vittima ieri una donna tedesca di 57 anni a Villa Borghese, parco al centro di Roma, violentata da un uomo tra i 20 e i 25 anni che ancora si sta cercando, trovata di notte, vi dicevo, da un tassista nuda e legata a un palo, il terzo caso di violenza sessuale in 10 giorni a Roma. Con la riflessione ieri sullo stato di arretratezza del nostro paese sul tema della libertà delle donne e quindi anche su questa mentalità patriarcale e di sopraffazione sul genere femminile ancora molto diffusa, con annessa poi ieri anche la polemica sulla situazione della sicurezza a Roma, e subito, non avevamo fatto neanche in tempo a parlare di questa cosa, subito si registra un ennesimo Stupro questa volta vicino Catania. Una dottoressa di turno alla guardia medica di Trecastagni è stata aggredita, violentata da un italiano di 26 anni e che poi è stato arrestato dai carabinieri. La sindaca di Roma, Raggi, commenta questi ultimi episodi di violenza, dice che quello che sta accadendo contro le donne è mostruoso e dice un settembre nero per l'Italia, il governo deve fare qualcosa e chiede che si intervenga con delle leggi speciali. Poi torneremo a parlare di Roma in particolare, però oggi il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, ha presentato un piano per contrastare la violenza di genere con 10 misure straordinarie, di cui poi parleremo più diffusamente, ed è di oggi la notizia che vi ricordavo poco fa, che la Corte Europea dei Diritti Umani ha rifiutato la richiesta del governo italiano di inviare davanti alla Grande Camera per un nuovo esame un caso di violenza domestica. Ve l'avevo parlato il 2 marzo scorso. La Corte Europea aveva condannato l'Italia per non aver agito con sufficiente rapidità per proteggere una donna e il figlio dal marito che alla fine aveva ucciso il ragazzo, lui, e tentato di assassinare la moglie. Questo evento era stato preceduto da tante violenze e maltrattamenti che erano state puntualmente denunciate. I giudici hanno stabilito che, non agendo prontamente, le autorità italiane hanno privato la denuncia di effetto e quindi c'è questa condanna definitiva per l'Italia. Allora, saluto Linda Laura Sabbadini, statistica editorialista della Stampa. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Sabbadini. Quindi, oltre a tutte le riflessioni che stiamo facendo in questi giorni, ma insomma, in sintesi, questo non è un paese per donne, c'è un'emergenza sociale. Che cosa ha pensato negli ultimi giorni? Il problema della violenza sulle donne è un problema gravissimo che ci trasciniamo da anni. Non è un problema solo di oggi, ovviamente. Quello che sta succedendo è che sta crescendo ovviamente molto anche l'attenzione nei confronti di questi aspetti, ne parliamo anche molto di più, e in un clima generale difficile che sta attraversando il nostro paese ovviamente si evidenzia anche, come dire, una sorta di aggravamento del modo in cui questa violenza si esprime. Un dato interessante che emergeva dalle indagini Istat metteva in luce che in realtà la violenza in senso lato, non gli stupri e non i femminicidi, che sono, diciamo, le violenze più gravi, che sono inchiodate nel tempo, non riusciamo a farle regredire, ma la violenza nel suo complesso contro le donne era in diminuzione, soprattutto nelle forme più leggere, il che ha fatto ipotizzare che probabilmente da parte delle donne, soprattutto da parte delle giovani e delle studentesse, c'è una maggiore capacità di intercettare questa violenza e bloccarla prima che assuma delle caratteristiche molto più gravi. Nel frattempo però, come dicevo, gli stupri non sono diminuiti e i femminicidi non sono diminuiti a loro volta, cioè non riusciamo ad estirparli. Sabbadini, ma rispetto al passato, le statistiche, sì, che cosa dicono? Che si denuncia rispetto di più? Rispetto al passato dicono quello che ho detto, cioè in questo momento non possiamo dire se c'è una crescita oppure no del fenomeno. Nessuno lo può sapere, perché anche se si evidenziasse che stanno aumentando le denunce di stupro, questo non necessariamente vuol dire che stanno aumentando gli stupri nel nostro paese, perché gli stupri vengono denunciati soltanto nel 10-12% dei casi dalle donne. Proprio una percentuale quindi bassissima, irrisoria. Una certo. crescita degli stupri potrebbe essere espressione del fatto che le donne di più denunciano che in passato, e non necessariamente della crescita del fenomeno. Quindi, per capire se il fenomeno sta crescendo, bisogna aspettare che l'Istat faccia la rilevazione anche sul sommerso degli stupri e di tutta la violenza sulle donne. L'ultima è stata fatta nel 2014, si dovrà rifare, io credo, nel 2018 per accordo con il Ministero delle Pari Opportunità. Lì e a quel punto si potrà fare anche il sommerso, e allora lì si capirà, come si è capito nel 2014, che siamo inchiodati sugli stupri, non crescono ma neanche purtroppo diminuiscono. Lì potremo capire se veramente c'è stata una crescita oppure no. Nessuno oggi può dire, né il Ministero degli Interni, né l'Istat, né nessuno oggi può dire se siamo di fronte a una crescita. Sabatini, leggo alcuni messaggi, per esempio Paola che dice, ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666, ci è stato abolito il Ministero delle Pari Opportunità. Poi sulla richiesta per esempio della sindaca Raggi di Roma sulle leggi speciali e invece da parte della Lega finora e ancora oggi da Salvini la castrazione chimica, mentre Calderoli, sempre della Lega, vicepresidente del Senato, ha chiesto la castrazione chirurgica. Gli ascoltatori scrivono, Francesco aveva scritto, quello di Calderoli demagogia spicciola e propagandistica, lascia il tempo che trova, servirebbero pene inasprite. Serena dice, sarebbe già un risultato se ci fosse l'immediato arresto, galera a vita senza possibilità di processo. Giovanna dice, educare sia a scuola sia in famiglia i giovani rispetto verso il prossimo, tenere maggiormente in considerazione le denunce delle donne. Poi Manu scrive, un piano a 360 gradi cominciando dalle scuole con più educazione civica, sensibilizzazione, pene molto severe e certe. Sinceramente la castrazione chimica comincia a palesarsi come una punizione, ma ahimè non una soluzione. Poi Marco dice, una pena lunga ma soprattutto certa. E così molti altri. Alessandro dice, non mi vergogno di dire che sono d'accordo con Calderoli. E serve soprattutto dotare alcuni uomini di cervello, scrive Maria. Insomma, tantissimi messaggi. Sabatini, che cosa davvero servirebbe, anche se sembra che ormai sia un rito quasi consumato, no? Questo di ritrovarci ogni poco a chiederci che cosa si potrebbe fare. Zingaretti, oggi forse lo facciamo sentire anche un passaggio del presidente della Regione Lazio, Zingaretti, che oggi in una conferenza stampa straordinaria ha presentato un piano con 10 misure, soprattutto per contrastare la violenza sulle donne. Era un atto di civiltà dovuto per evitare che di fronte a questo ulteriore atto di violenza ci si limitasse all'indignazione o aspettare che le notizie dalla cronaca nera scomparissero. No, bisogna reagire e lo possiamo fare perché ci sono politiche attive molto importanti di contrasto a questo fenomeno. E tra l'altro ha anche ha lanciato un appello alle scuole del Lazio che lunedì parlino di violenza sulle donne, di parità di genere. Sentiamo anche questo. Dopo quanto è avvenuto l'altro giorno a Villa Borghese, ci sentiamo di chiamare tutti alla mobilitazione culturale e quindi un appello alle scuole del Lazio, di Roma, affinché lunedì ci sia con i professori e con gli studenti una giornata o delle occasioni di riflessione che segnino una reazione. Noi stiamo dalla parte delle donne, noi raccoglieremo sul nostro sito internet testi, film da vedere, suggerimenti su come condurre la giornata di lunedì. Che ne pensa Sabatini? Allora, penso che sia assolutamente utile, sono molto d'accordo con molti commenti che sono stati fatti anche dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici. È chiaro che per sconfiggere la violenza contro le donne c'è bisogno di un piano ad ampio spettro, e di una battaglia permanente che travalichi i singoli governi. Non è possibile che ogni volta ogni governo si trova poi a ridefinire il tutto. Dobbiamo investirci di più anche in termini di risorse, dobbiamo investirci permanentemente perché è un fenomeno difficilissimo da sradicare, perché le radici di questo fenomeno stanno nella cultura, stanno nel desiderio di dominio e di possesso dell'uomo sulla donna. E se non riusciamo a sradicare questo, non riusciremo a sradicare la violenza nel suo complesso. Quindi c'è bisogno dell'azione nelle scuole, questa assolutamente, c'è bisogno che se ne parli nelle famiglie, ma purtroppo noi sappiamo che in molte famiglie purtroppo la violenza e gli stupri ci sono proprio da parte dei partner nei confronti delle donne. Però comunque questa cosa deve andare avanti con grande forza, bisogna mettersi in rete con i centri antiviolenza che lavorano sul territorio, con le strutture sanitarie e anche con le forze di polizia, i carabinieri. Cioè bisogna fare un grossissimo lavoro di formazione anche di tutto questo personale che deve avere la capacità di intercettare la violenza, perché moltissime donne non se la sentono di denunciare, perché poi si ritrovano sotto interrogatorio a dover dimostrare di non essere consenzienti, dimostrare che non erano state consenzienti al momento della violenza, si ritrovano di fronte a pressioni sociali a ritirare le denunce, a interrompere, vecchia a storia, interrompere insomma, i processi. Insomma, è un percorso difficilissimo da fare per una donna che dopo aver subito anche la violenza sulla propria pelle, che lascia dei segni indelebili, gravissimi, profondissimi per tutta la vita, è costretta pure poi a non vedersi supportata adeguatamente da chi dovrebbe sostenerla. Questo è un problema serio, perché pure il problema che non si è intervenuti e non si interviene tempestivamente. A questo proposito, quando Sabbadini, scusi, sì, questo è un vecchio problema. Vorrei salutare Virman Cusenza, direttore del Messaggero. Virman, buonasera. Sì, buonasera a voi. Buonasera. Virman, dicevamo di Roma, no? La polemica ieri è scoppiata anche molto, a parte sulla questione della violenza sulle donne, anche proprio sulla sicurezza a Roma. Da direttore del Messaggero, che diciamo dal tuo osservatorio, che cosa vedi per quanto riguarda la capitale? Guarda, noi abbiamo lanciato in tempi che definirei anche se ravvicinati non sospetti, cioè più di una settimana fa, la campagna appunto per rendere Roma più sicura per le donne. E alle prime avvisaglie appunto di questi fenomeni di violenza che si sono ripetuti poi anche con una diciamo frequenza davvero allarmante negli ultimi mesi, abbiamo appunto lanciato questa campagna per sensibilizzare un po' tutti, dalle istituzioni che sono state quantomeno distratte, parlo di Comune, Regione, che adesso si affannano a fare conferenze stampa, ma in realtà avevano questa realtà sotto gli occhi già da tempo, all'opinione pubblica e ai cittadini, perché sono d'accordo appunto con l'intervento di prima la professoressa, diciamo che da questo punto di vista ritengo che soltanto una campagna di sensibilizzazione vera possa risolvere il problema. Oggi abbiamo assistito ad una proposta direi strampalata da parte della sindaca Raggi, che propone leggi speciali, cioè il governo dovrebbe intervenire secondo lei con delle leggi speciali. Ora, di grida manzoniane siamo pieni in questo paese, non mancano certo le norme, quelle che ci sono non vengono neanche applicate. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che in realtà il reato di stupro è punito severamente al nostro codice, si va dai 5 fino ai 10 anni, che non sono pochi, di carcere. Magari però venissero appunto espiate queste pene, magari venissero applicate e soprattutto magari venissero perseguiti appunto gli autori di questi reati, di qualunque colore siano e di qualunque, diciamo, qualunque appartenenza sociale abbiano. Il problema è che questo non accade, quindi non abbiamo bisogno di leggi, ma abbiamo bisogno casomai di aule nelle quali appunto formare cittadini che abbiano una sensibilità migliore di quella che fino ad oggi abbiamo avuto. Virman, per chiudere, prego. Scusami Virman, ma questo nei confronti di Roma, di dire che Roma è fuori controllo, allo sbando, sì, come hanno detto sì. Vari parti politiche in questi giorni, è un accanimento nei confronti della sindaca Raggi o una situazione davvero di peggioramento della città, per sintesi? Ma noi siamo un giornale che non ha pregiudizi e soprattutto si augura il meglio per Roma, da romani e da appunto, come dire, insomma, espressione dell'anima più profonda di questa città. Quindi il problema non è accanirsi con qualcuno, però è denunciare le cose che non funzionano. Ora, oggettivamente, Roma ha avuto un fenomeno che è diciamo, sinergico, ma in realtà l'uno è la conseguenza dell'altro, cioè un degrado che è aumentato nel corso del tempo, nel quale poi hanno cominciato a prosperare alcune violenze. Quindi è oggettivamente peggiorata la situazione della città, ma non tanto per numero di reati, questi poi andrebbero controllati ed è una cosa che faremo, ma piuttosto per la percezione di insicurezza complessiva che c'è e anche per la mancanza di di attenzione da parte di chi poi frequenta la città. Faccio un esempio: nulla insomma, di fatto alimenta comportamenti violenti quanto l'impressione che l'ambiente circostante sia una giungla di disordine, certo, di sporcizia. Cioè è una legge psicologica universale che potremmo definire spirito di imitazione, il principio per il quale insomma gli italiani a Oslo si fermano anche con il giallo, mentre i tedeschi, una volta che vengono a sud, si sentono in diritto di correre come matti anche nei centri abitati. Vediamo cioè, quindi molto bene. È una città illuminata di fatto e pulita, dissuade più di 100 gazzelle della polizia. Quindi ora di prendere Roma in mano, insomma, da ogni punto di vista. Questa è la vera urgenza. Grazie Firman Cusenza, direttore del Messaggero. Grazie a voi. Grazie Firman, buon lavoro. Grazie Linda Laura Sabadini. Adesso c'è la pausa, ci ritroviamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo le tante notizie a partire da quelle più importanti. Abbiamo parlato adesso ampiamente del nuovo caso di violenza, questa volta vicino Catania. Di nuovo abbiamo parlato anche dei problemi di sicurezza a Roma. Le altre notizie importanti sono: Trump nel suo primo intervento all'ONU scuote la Corea, dice se ci attacca la distruggeremo. E poi anche la politica con i 5 Stelle a nervi tesi, Grillo che attacca i giornalisti, stop del tribunale alle regionali del Movimento 5 Stelle in Sicilia, ma Cancelleri va avanti. E poi c'è la Serie A con Dario Ricci, come va Inter Bologna? Inter Bologna, siamo nell'intervallo, cara Roberta. Bologna sorprendentemente in vantaggio per 1-0, e dico sorprendentemente rispetto alle previsioni, ma non per quanto si è visto in campo, perché almeno 3 nitide, sempre con Simone Verdi, le occasioni per i felsine, per i padroni di casa. Prima della rete al 32esimo, ancora protagonista l'attaccante rossoblù che ha battuto Andanovic con uno splendido sinistro dai 20 metri. Sul finire del primo tempo Inter però avvicina al pareggio, il cross di Perisic, Icardi non ci arriva per un soffio. Al momento nell'intervallo Bologna 1-0. A dopo, grazie Dario Ricci. E la politica italiana che ha ripreso a essere protagonista della scena a pieno ritmo ormai dopo le vacanze. Adesso per oggi c'è l'intoppo per le regionali in Sicilia del Movimento 5 Stelle, lo spiraglio per la Lega, forse c'è uno sblocco dei fondi che sono stati bloccati dal tribunale per l'uso improprio dei soldi da parte di Bossi e Belsito. E poi le ultime sulla legge elettorale. Cara Barbara Fiammeri. Ciao. Ciao Barbara. Io stavo leggendo ancora delle dichiarazioni poco fa di Renzi, ancora sulla legge elettorale. Più che le ultime sono le penultime. Cos'è la novità di oggi? Mi rifiuto di approfondire da sola, dimmi tu. Che il PD presenterà giovedì una nuova proposta che si chiama già Rosatellum bis. E per spiegarla ai nostri ascoltatori, si tratta di un sistema semi-maggioritario, ovvero simile al Mattarellum, ma con collegi uninominali, cioè il candidato è visibile, lo scegliamo, ma solo per il 37% dei deputati complessivi. Parliamo di 231 deputati su 630, gli altri saranno in un listino proporzionale. Questa ipotesi dovrebbe trovare il consenso di forze del centrodestra, probabilmente. Forza Italia per adesso si tiene un po' le mani libere, però insomma, piuttosto che finire in un listone con Salvini, forse preferisce anche un sistema semi-maggioritario come quello che sarà presentato appunto giovedì. Chi invece dice di no nettamente sono i grillini e anche gli ex Dem, i bersaniani di MDP. I grillini perché chiaramente intravedono nei collegi il fatto che vengono premiate le coalizioni, perché comunque si prevede una, di fatto con il collegio il tentativo che si fa è sempre quello della coalizione per vincere nel collegio. E poi diciamo che per i grillini i collegi portano come handicap il fatto che devi avere delle persone con una visibilità e che laddove le presenti queste persone con visibilità acquisiscono una loro forza, insomma viene un po' meno il principio dell'uno vale uno. Pensiamo al caso di Fico in Campania, che potrebbe prendere magari molti voti e quindi una volta tornato in Parlamento avrebbe una forza al suo ben bel diversa. Peso. Sì. So, questo giusto per la penultima puntata. Sì, e ma poi tanto dopo... vedremo perché c'è sempre il voto segreto, per cui come già è stato affossato il cosiddetto Tedeschellum, che era un proporzionale puro sostanzialmente con sbarramento, anche questo sistema, se anche dovesse superare l'esame, ci fosse l'accordo con il centrodestra per questo sistema, che poi passi il vaglio dell'aula, è tutto da vedere. È tutto da vedere. Hai citato il Movimento 5 Stelle, c'è questa questione delle regionali che sono state bloccate dal tribunale, c'è stata la conferma di questo blocco, quindi del voto online per decidere il candidato per la Sicilia, si voterà il 5 novembre, questo per il ricorso presentato dall'attivista Mauro Giulivi, escluso per non aver sottoscritto in tempo il codice etico. Però Cancelleri, che è il candidato ufficiale del Movimento 5 Stelle, fa sapere che lui andrà avanti lo stesso. Vogliamo sentire un passaggio di Cancelleri? Devo dire che ricevo messaggi in questi giorni di solidarietà, ma soprattutto la gente ha capito che questa è un'operazione fatta da azzeccagarbugli che vogliono in qualche modo fermare il movimento. Io dico a tutti: volete battere il movimento? Battetelo in una competizione elettorale, secondo le leggi democratiche. Comunque, di questo Barbara, paese, non... la giudice ha detto le candidature online del Movimento 5 Stelle sono generiche, però ha anche detto che la sospensione delle regionarie non compromette la possibilità da parte dei 5 Stelle di proporre le candidature alle elezioni, quindi in realtà non mi pare un grossissimo problema. Sì, ma no? Diciamo che non cambia molto, cioè è più un dato politico che certifica lo scontro all'interno del Movimento 5 Stelle, perché poi questo, come dicevi poc'anzi, si tratta di un militante dei 5 Stelle, chi ha proposto il ricorso, insomma, chi ha Giulivi, promosso il ricorso, sì. Quindi più il dato politico che il dato sostanziale. Cancelleri resterà e sarà confermato candidato governatore della Sicilia, insomma, questo non è fuori di dubbio. Invece, per quanto riguarda la Lega, dicevamo che c'è uno spiraglio per lo sblocco dei conti correnti, dei fondi della Lega, perché il procuratore di Genova, Cozzi, ha detto la strada maestra è quella dell'eventuale prestazione di garanzie, per esempio una fideiussione o con un immobile, o si potrebbero ottenere lo svincolo in questo modo delle somme. Quindi, insomma, probabilmente dopo questo annuncio di ribellione da parte della Lega, di assentarsi dal Parlamento fino a quando ci sarà lo sblocco di questi fondi, forse, diciamo, una pressione l'ha fatta. Però tu stessa dicevi ieri non sarebbe giusto che la Lega non potesse partecipare all'attività politica per questo fatto, no? Quindi probabilmente si raggiungerà un compromesso, immagino. Beh, io lo auspico, nel senso che, appunto, come dicevo ieri, come tu ricordavi, pensare che un partito non possa agire politicamente, non possa pagare l'affitto di sedi piuttosto che manifestazioni elettorali, lo trovo, come dire, un vulnus proprio democratico, e quindi ben venga qualsiasi iniziativa, sì. Grazie Barbara Fiammeri. Grazie a voi, buonasera. Grazie Barbara Fiammeri, Sole 24 Ore. Adesso aggiorniamo chi sta viaggiando. Sì, la via. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie le avete sentite, quindi per quanto riguarda politica, di nuovo il PD rilancia sulla legge elettorale, Renzi dice però ci provo ma temo melina da parte degli altri. Poi i 5 Stelle con questa sospensione per il momento delle regionarie in Sicilia, mentre Grillo attacca i giornalisti e dice vi mangerei solo per il gusto di vomitarvi, mentre il segretario della Federazione Nazionale Giornalisti, Lo Russo, dice lui provoca la nausea anche a digiuno. E poi Trump che scuote l'ONU: se la Corea ci attacca lo distruggeremo, ne parliamo tra pochissimo. La violenza, ancora una violenza sulle donne, una dottoressa stuprata vicino Catania e la sindaca Raggi che chiede leggi speciali, mentre il garante della privacy chiede di proteggere le vittime e di non dare dettagli sulla loro identità. E ritorniamo all'Assemblea Generale dell'ONU con il nostro Marco Valsani da New York. Caro Marco. Pronto, sì, ciao. Ma Marco, hai vicino a te Trump per caso? No, non proprio vicino, perché dopo il discorso si è poi allontanato. Immaginiamo che avesse molto da fare, insomma. Senti, esatto, oggi ha tenuto il suo primo discorso alle Nazioni Unite da presidente, no? Naturalmente ha mostrato i muscoli, come nel suo stile, e ha detto, riferito a Pyongyang, alla Corea del Nord, attenzione che se ci attacca noi la distruggeremo. Diciamo, questo è un po' il nocciolo, l'aspetto saliente di questo suo discorso, oltre a ripetere più volte America first, America first, l'America prima di tutto, no? Sì. Sì, direi di sì. Il messaggio più duro e che è risuonato in modo più forte è stato sicuramente così il monito alla Corea del Nord, se la diplomazia fallirà, se ci saranno minacce, difendere se stessi e i loro alleati, sappiate, ha detto Trump, che siamo disposti ad annichilire la Corea del Nord, a distruggere totalmente il paese, non che lo auspichi, ha detto, ma questa è comunque un'opzione che ha menzionato. Ha usato parole quasi altrettanto dure nei confronti dell'Iran, altra nemesi, di Trump, dicendo che l'accordo nucleare raggiunto nel 2015 sotto il suo predecessore Barack Obama e assieme alle potenze occidentali ed europee è in realtà imbarazzante, un accordo è uno dei peggiori accordi mai fatti dagli Stati Uniti, quindi lasciando balenare così l'ipotesi che possa anche ritirarsi, cancellare, così, uscire dall'accordo sull'Iran. Ma sicuramente, come dicevi tu, è il messaggio sulla Corea del Nord che ha fatto sicuramente più rumore in questo suo debutto all'ONU, in cui accanto però a questi toni molto duri e bellicosi e sicuramente abbastanza apocalittici, insoliti per un presidente statunitense, ha cercato quantomeno di non bruciare i ponti però con il resto del mondo, ha anche sottolineato che l'ONU ha un potenziale positivo, che è possibile lavorare assieme per obiettivi comuni tra i paesi del mondo e che anzi la sua America First, che ha ripetuto, concetto che ha ripetuto più volte, la sua America First non è in antitesi con la un clima di cooperazione internazionale, anzi ha detto ne potrebbe, dovrebbe essere un fondamento più stabile, ha detto che in realtà America First è un concetto da esportare ad altri paesi, ciascun paese deve badare alla propria prosperità e su questa base lui crede, o quantomeno dice di credere, è possibile poi raggiungere un consenso e una cooperazione che porti a isolare i veri cattivi e quindi in particolare Pyongyang e Kim Jong-un. Quindi oggi Trump, grande protagonista dell'Assemblea Generale dell'ONU. Grazie Marco Balzani in diretta delle Nazioni Unite. Ciao Marco, buon grazie lavoro. Grazie a voi. Riprendiamo il nostro Dario Ricci. Come prosegue quindi la partita di Serie A Bologna-Inter, caro Dario? È iniziato da poco il gioco, siamo all'inizio appunto del secondo tempo, al terzo minuto per l'esaltezza, Bologna sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete al 32esimo di Simone Verdi, non c'è stato nessun cambio nell'intervallo, si continua con i 22 che sono scesi inizialmente in campo, Bologna ancora in avanti, chiude la difesa dell'Inter. Dario, abbiamo ancora un minuto per raccontarci che Valentino Rossi è subito di nuovo in pista, non si era rotto qualcosa? Si è rotto, ahimè, più di qualcosa, tibia e perone, appena 19 giorni fa nell'allenamento con una moto di enduro, come sai Roberta, ebbene Valentino sta dando il massimo per provare a tornare in gara, pensa addirittura nel weekend ad Aragon, ieri il test, un primo test verso sera, diciamo, in tardo pomeriggio sulla pista di Misano, oggi ci ha riprovato, le sensazioni che ci arrivano sono quelle che davvero possa farcela. Il papà Graziano ha detto sono ottimista, insomma se lo dice lui. Insomma, subito diciamo un recupero velocissimo questo di Valentino Rossi, vedremo quali saranno i risultati. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Ciao Dario, e a questo punto ci dobbiamo lasciare, poi sapete che ci ritroviamo brevemente alle 22.